tempo sembra che scompari in assoluto. Avvicinandomi sento la febbre che sale con me, corre una fiamma. Toccami, passa e bruciami. Sapevo se ci avrebbe riuniti questo destino che balla davanti a noi, ultimo passo di un amore. Toccami, non lasciare fare il vento, prendimi la mano. Thank you.